Economia in pagina di Gianfranco Fabi. Buonasera a quanti ci ascoltano. Questa sera parliamo proprio di economia, anzi di wiki economia. Questo è il titolo del libro di Leonardo Becchetti. Buonasera Becchetti. Buonasera. Leonardo Becchetti è ordinario di economia politica all'Università di Tor Vergata, è stato presidente del comitato etico della Banca Popolare Etica, cura un blog Felicità Sostenibile su Repubblica, è stato tra i fondatori della Scuola di Economia Civile e questo libro è proprio un manifesto dell'economia civile. Allora, Leonardo Becchetti, perché Wikieconomia? Ma Wikieconomia perché oggi la rete ci offre delle possibilità immense di sfruttamento di quei giacimenti di gratuità, di conoscenze, di energie della gente per costruire una conoscenza superiore. Già quando McLuhan vide l'avvento della televisione parlò di villaggio globale, ecco, oggi c'è stato un salto di qualità ulteriore, penso anche alla definizione di Teilhard Chardin di noosfera, cioè questo coscienza collettiva, questa conoscenza collettiva che in rete si alimenta e si sviluppa in maniera rapidissima. Faccio l'esempio, alcuni miei colleghi prima ancora di pubblicare un lavoro online mandano la slide del loro miglior grafico, del loro miglior risultato e già parte il dibattito in rete con commenti, quindi è come se ci fosse un dialogo, un convegno permanente, così quando la rete non è solo scambio di umori, scambio di rancori, ma diventa veramente scambio di informazioni e dibattito, può facilitare lo sviluppo, diciamo, della conoscenza. Dall'altra parte può essere anche uno strumento molto importante attraverso il quale dal basso i cittadini possono, come dico io, votare col portafoglio o col mouse, cioè possono nel loro stesso interesse promuovere quelle aziende, quelle banche, quelle organizzazioni che sono all'avanguardia nel creare valore economico in maniera socialmente e ambientalmente sostenibile. Questo loro lo devono fare non tanto per una questione di altruismo quanto per una questione di autointeresse lungimirante, cioè è nell'interesse di tutti noi avere delle banche che veramente prestino i soldi all'economia reale e non facciano solo speculazione, avere delle aziende che oltre a produrre dei buoni prodotti sappiano dare anche dei buoni salari e non danneggino l'ambiente. Ecco, per ottenere questo risultato il potere è nelle mani dei cittadini e la capacità di mettere assieme questo potere attraverso orientando le quote di consumo, di risparmio, votando anche col mouse nelle campagne è molto maggiore oggi che c'è la rete, perché la rete ha questa capacità di attivare e di agglomerare in maniera molto più rapida le volontà disperse di tanti piccoli cittadini. Ecco, in questo libro mette in luce il fatto che questo cambiamento sia proprio un cambiamento di sistema, come passare dal pensiero tolemaico al pensiero copernicano, cioè mettere veramente al centro la persona e non tanto l'utilità, la pratica comune. Ecco, in questa prospettiva però c'è ancora molto da fare, cioè la rete è ancora più attualmente, diciamo, una speranza, una cosa che è ancora limitata, che non una realtà condivisa da moltissime persone. Assolutamente, un mezzo ovviamente che va usato nel modo migliore possibile per ottenere questi obiettivi. L'economia civile, se vogliamo riassumere proprio in una frase il suo manifesto, è proprio la lotta contro questi tre riduzionismi. Cioè, noi possiamo progredire oggi verso il bene comune, avere un'economia più umana, se sconfiggiamo tre visioni riduzioniste della persona, del valore e dell'impresa. Vedere il valore solamente come il PIL oggi non solo non è più conveniente, ma non è neanche più possibile. Una volta che noi mettiamo nel PIL la droga, la prostituzione, il contrabbando, cosa che possiamo anche fare perché si tratta di transazioni monetarie, allora deve essere chiaro che il PIL non misura più la felicità e abbiamo bisogno di indicatori di benessere diversi dal PIL, per esempio il BES costruito in Italia l'anno scorso, che ci indicano la strada ai nostri politici verso il miglioramento del benessere. Dall'altra parte abbiamo bisogno di imprese che non siano unicamente votate alla massimizzazione del profitto. Interessantissimo su questo il dibattito persino sul Financial Times, abbiamo sentito commentatori autorevoli come Wolf dire che una banca non può massimizzare il profitto altrimenti tende a fare solo speculazione. Quindi dobbiamo avere delle imprese che mettano al centro il benessere degli stakeholder, quindi non solo guardare agli azionisti ma guardare anche ai lavoratori, alle comunità locali, ai fornitori, quindi una visione più ampia. E già oggi questa ricchezza, questa biodiversità organizzativa delle imprese è sotto gli occhi di tutti, abbiamo moltissime organizzazioni sociali, cooperative, imprese not for profit, imprese profit che si orientano ai principi della responsabilità sociale d'impresa. Ricordo recentemente, anche per esperienza personale, il presidente della Nestlé parlare, dire che formalmente almeno l'obiettivo della sua azienda è quello della shared share value, cioè del valore condiviso, non della massimizzazione del profitto. Si va in questa direzione, credo che sia la direzione fondamentale. È chiaro che la velocità con cui muoviamo in questa direzione dipenderà in maniera cruciale da una parte dalle regole del gioco, perché le regole del gioco sono decisive per far vincere un tipo o un altro di impresa. Dall'altra, e torno quindi al punto della gig economia, dalla forza dell'azione dal basso dei cittadini. Più i cittadini scopriranno di avere in tasca le chiavi dei lucchetti delle loro catene, voteranno col portafoglio, premieranno nei consumi, nei risparmi, col mouse, le aziende all'avanguardia nella efficienza a tre dimensioni, nella creazione di valore economico, un valore socialmente e ambientalmente sostenibile, e più questo cambiamento sarà veloce nel nostro stesso interesse. Ecco, proprio avere in tasca le chiavi del lucchetto delle catene che ci tengono prigionieri è il sommario di un capitolo sulle asimmetrie informative in questo libro, asimmetrie informative che sono quelle che poi avvantaggiano alcuni rispetto ad altri. La rete può facilitare il superamento di queste asimmetrie, può mettere a disposizione un'informazione a tutti, però anche qui bisogna stare attenti, bisogna avere una grande attenzione nell'uso della rete. In questo senso l'educazione, per esempio per i giovani, è un fattore molto importante. Assolutamente, è chiaro che stiamo parlando di circoli virtuosi. Io ci tengo a sottolineare nel libro alcuni di questi circoli virtuosi, ma chiaramente poi la rete può diventare un luogo dove prevale invece l'emotività, la velocità, la mancanza di riflessione. Però appunto, guardando agli esempi positivi, che ovviamente richiedono persone formate, persone istruite, penso alla campagna di Oxfam. Oxfam ha fatto un bellissimo lavoro nello scorso anno, una campagna che si chiama Dietro il Marchio, ha portato della nuova informazione a disposizione di tutti i cittadini sull'impatto sociale e ambientale delle diverse aziende alimentari mondiali e ha spinto i cittadini a inviare dei messaggi di approvazione e disapprovazione nei confronti di queste aziende. Il risultato sono state centinaia di migliaia di mail a queste aziende, quindi un voto col mouse, diciamo. E queste 9 delle 10 aziende hanno modificato alcuni protocolli, quindi hanno trovato anche l'incentivo per aumentare il loro grado di responsabilità sociale e ambientale. Chiaro che tutti questi strumenti potentissimi che abbiamo potranno essere usati in circoli virtuosi o non in circoli viziosi, quanto più, diciamo, ci sarà dietro raziocinio, formazione e da parte delle persone che li usano. Ecco un po'. L'obiettivo del libro, come dico io, l'economista un po' mi piace definirlo come l'identificatore di circoli virtuosi, un medico piuttosto che un entomologo che si limita a vivisezionare e a guardare asetticamente quello che c'è nel mondo. Ecco, in questo senso, diciamo, il nostro ruolo è quello di indicare che ci sono delle vie possibili di miglioramento. Quindi iniziative individuali, iniziative collettive, ma anche regole sociali, regole politiche. Tra l'altro il libro in conclusione parla del dibattito sulla Tobin Tax, proprio sul fatto di regolare uno dei fattori che la rete rende possibile, cioè queste transazioni ad alta frequenza che sono gestite dai computer e che in qualche modo distorcono il mercato finanziario a danno dello stesso mercato finanziario. Quindi in questa prospettiva le regole sono fondamentali, sono importanti. Le regole sono fondamentali. Io sono portavoce di una campagna di 50 organizzazioni per la riforma della finanza e mi fa piacere che alcuni dei nostri temi ormai siano condivisi da tutti. Penso al programma di Passera che ha messo la Tobin Tax tra i suoi punti. Io credo che siamo vittime di una sbornia. A un certo punto abbiamo pensato, per usare una metafora, che i mercati finanziari potessero autoregolarsi, come se noi dicessimo che il traffico autostradale si deve autoregolare, quindi senza semafori, senza regole. Chiaramente il traffico autostradale non si autoregola, si creano bolle, ingorghi, crisi finanziarie, e a questo punto bisogna anche capire come è fatto oggi il traffico stradale, diciamo, dei mercati finanziari. Il fatto che ci siano alcuni operatori che hanno un potere tecnologico enorme, hanno la capacità di intercettare gli ordini magari di grandi fondi e di realizzarli con un millisecondo di anticipo, questo vuol dire che nei mercati si creano appunto delle dinamiche perverse, i cosiddetti flash trade, il cosiddetto trading a alta frequenza, che non porta affatto qualità di informazione, anzi scoraggia chi vorrebbe entrare sul mercato, investire del tempo per portare delle informazioni, quindi migliorare le conoscenze, scoraggia queste persone a partecipare al mercato. Allora chiaramente oggi diventa, lo ha detto anche Stiglitz recentemente in un paper che ha pubblicato da poco, diventa fondamentale mettere alcune regole. Una di queste regole è rallentare, diciamo, disincentivare la frequenza, diciamo, delle transazioni attraverso una piccolissima tassa che può poi potrà, i cui proventi potranno essere usati per motivi molto importanti come il budget europeo, per esempio la lotta alle grandi malattie mondiali o per la tutela dell'ambiente. Altre cose importanti, fondamentali e per la riforma della finanza sono la regolamentazione del fiscale. È del tutto impossibile, come si vede oggi in questo momento, che per esempio i paesi dell'Unione Europea abbiano al loro interno dei paradisi fiscali, abbiano delle differenze di aliquote di 20-30 punti percentuali tra un paese e l'altro. Con la perfetta mobilità delle aziende, dei capitali, questo diventa insostenibile. Allora, un lavoro molto importante che sta facendo l'Ocse assieme anche ONG come Transparency è quella della lotta, diciamo, all'erosione fiscale, cioè creare un quadro di regole nella globalizzazione, passare dal caos a un quadro di regole più stabili, nelle quali appunto non sia possibile questo arbitraggio, questa corsa verso il basso sia sul lavoro che sulle regole fiscali. Ecco, Becchetti, molte di queste cose. Certo, per concludere però vorrei dire anche, non si tratta solo di fare una rivoluzione, si tratta anche di valorizzare cose positive che già ci sono, l'esperienza italiana, per esempio sul microcredito, per esempio sulla banca etica, sulle banche popolari, sulle banche cooperative, presenta una finanza vicina alle persone e diciamo meno ricca di derivati, di prodotti strutturali che non le grandi banche. Quindi valorizzare queste esperienze è anche un elemento di questa economia civile. L'Italia ha una bellissima tradizione, diciamo che la speranza di un nuovo che può diffondersi viene proprio dal fatto, anche personalmente, per esperienza mia personale, di aver camminato a lungo con questi pionieri, quindi col credito cooperativo, con la banca etica, che è oggi la seconda banca etica in Europa, e quindi aver visto concretamente che è possibile costruire delle organizzazioni che sanno stare sul mercato, quindi che sono sostenibili, che fanno anche degli utili e che si propongono delle finalità etiche, e vedere che queste finalità etiche diventano una vera e propria missione che stimola anche le motivazioni intrinseche, la voglia di lavorare, la produttività delle persone che sono all'interno di questa azienda. Io credo che il grande obiettivo, e qui veramente lanciamo un orizzonte proprio per parlare di indicatori del futuro, potrebbe essere questo: non massimizzare il PIL, ma massimizzare quello che chiameremo il benessere eudaimonico, la soddisfazione eudaimonica, cioè il numero di persone che quando escono, si svegliano la mattina e vanno al lavoro, dicono: sto facendo qualcosa che veramente ha un senso. E io posso dire che le persone che lavorano all'interno di questa economia nuova e solidale questo lo trovano. Ecco, quindi credo che l'obiettivo oggi sia questo, non tanto ovviamente combattere la disoccupazione, ma anche aumentare la quota di persone che dicono veramente: non solo io ho un lavoro, ma faccio qualcosa che penso che possa contribuire al benessere comune. Cioè riscoprire in fondo i valori sociali, i valori collettivi, cercare di usare al massimo le risorse grandi che abbiamo, anche risorse potenziali come quelle che ci sono appunto nella rete, che ci sono nella capacità di costruire un'economia magari diversa, magari non così ricca come in passato, ma forse più equa, più condivisibile. Grazie a Leonardo Becchetti per averci parlato del suo libro, lo ricordo, Wiki Economia, Manifesto dell'Economia Civile, sono 200 pagine, per 15 euro l'editore è Il Mulino. Grazie a lei e agli ascoltatori. Grazie mille, grazie anche a Peter Bescape in regia, a Luca Cremonese in redazione, l'appuntamento con Economia in Pagine per sabato prossimo.